È il giorno oggi, il venerdì 20 gennaio, quello delle liberalizzazioni, molto attese nel Consiglio dei Ministri. Molti si concentrano su questo tema nei titoli. Il Sole 24 Ore, tutte le novità per famiglie e imprese. Questo è il titolo di apertura. Per il Corriere della Sera, pagamenti più veloci alle aziende. Per Repubblica, imprese, lo Stato paga in bot. La Stampa, in piazza, protesta selvaggia. E anche il Fatto Quotidiano mette tre foto col titolo «Nelle mani di questi qua», e sono il leader dei tassisti e due leader del movimento dei forconi in Sicilia. «Liberalizzazioni bluff», titola, o bluff meglio, il quotidiano Libero. Per il Messaggero, «Tregua, governo tassisti». Il Giornale invece napolitano vuole il bis, grandi manovre, punta alla riconferma di questo governo nel 2013. Contratti alla carte, così titola il Manifesto in prima pagina, mentre polveriera Sicilia per l'Unità. Avvenire, liberalizzazioni, tante proteste, Monti, avanti così. Allora, notizie dalla casta per l'appunto. Udite, udite, cari ascoltatori, pagina 18 del Corriere della Sera, vitalizi, tanto amati dagli italiani, vitalizi per i parlamentari. C'è un ricorso contro i tagli. 20 deputati si ribellano. E io lo so che voi volete i nomi di questi 20 deputati. Lo so già che li bramate. E vorreste sapere chi sono questi 20 deputati che hanno scritto all'onorevole Giuseppe Consolo, presidente del Consiglio di giurisdizione della Camera, l'organismo che decide tutte le controversie interne. La lista è protetta. Lo stesso onorevole Consolo, presidente, dice: ci sono dei nomi illustri, ma non li do i nomi. È ancora riservata la notizia, non so neanche come sia venuta fuori. Ci sono dei nomi illustri, ma non dico chi sono, perché temo che scoppi la protesta. In ogni caso, dobbiamo ancora vagliare le carte, ci sono 20 deputati, ma pare che saranno anche di più presto, che hanno fatto ricorso contro il taglio del vitalizio. Per la verità, un'agenzia di stampa, la Dire, ha fatto uscire i primi due nomi, i sospettati. Sono Adriano Paroli, onorevole, e per la verità si è dimesso da poco, perché è anche sindaco di Brescia, e dunque la carica era incompatibile. E il deputato leghista Daniele Molgora. Saranno due che hanno fatto ricorso? Non si sa. Intanto la notizia c'è anche su Repubblica, sotto questo articolo dal titolo «Camera, ecco i tagli sui portaborse, solo assunti o il rimborso non scatta». Questa è una buona notizia, cioè verrà dal 2013. Basta dare un forfè di 3.690 euro alla Camera per ogni deputato che dovrebbe poi girarlo al portaborse, col risultato che alla Camera e al Senato risultano 236 contratti regolari di portaborse quando i deputati sono 630. Cioè, c'è qualcuno, così direbbe Sherlock Holmes, o forse basterebbe Watson, a dire che forse non regolarizza qualche suo portaborse, no? 630 deputati, 236 regolari contratti depositati alla Camera. Qualcuno fa il furbetto, anche perché poi c'è qualcuno che ne ha magari più di uno di portaborse, e quindi in realtà sono ancora di più i contratti in nero. A questo punto si è deciso, basta, non verranno più erogati questi 3.690 euro alla Camera e 4.100 euro al Senato al mese per ogni deputato, o meglio venivano dati ai gruppi parlamentari che le giravano i deputati per i portaborse. Ora verranno pagati i portaborse direttamente dalla Camera, quindi depositi il contratto è regolare e la Camera paga direttamente il portaborse, e dunque lo paga anche secondo quello che c'è scritto nel contratto. Ma in questo articolo di Carmelo Lo Papa, pagina 15, c'è questa notizia, appunto, che l'agenzia Dire ha riportato, di nomi che restano coperti, nomi illustri che hanno fatto ricorso contro i vitalizi alla Camera, contro il taglio dei vitalizi alla Camera. Per ora 20 deputati, vi prometto che se ne scopriremo i nomi li chiameremo, questo lo sapete certamente. Sempre notizia dalla casta, pagina 7 di Libero, Micci che arriva tardi, i rimborsi lo aspettano. Ecco qui un'altra consuetudine che c'è alla Camera e nel decreto mille proroghe. Il caso più clamoroso, le elezioni del Molise, il 16-17 ottobre, i partiti che ottengono i voti hanno diritto a dei rimborsi elettorali, come sapete. C'è un termine però, entro cui presentare la domanda. I partiti devono chiederli questi rimborsi, non sono automatici. La domanda, il termine è scaduto. Ma che cosa succede ogni anno nel mille proroghe per quei partiti che si sono dimenticati, capito? Si sono dimenticati di chiedere rimborsi, erano distratte. Avviene un emendamento, c'è cioè l'emendamento del decreto mille proroghe e viene data, prorogata di un altro mese, la possibilità di chiedere i rimborsi previsti dalla legge. Ma se uno è distratto, provate voi a chiedere un rimborso quando vi è scaduto il termine, andate a chiederlo e vedete se ve lo danno ancora. Carmelo Lauricella fa un gesto che non si può ripetere, ma insomma è per capire il gesto dell'ombrello, quello che ricevereste voi cittadini. Invece i partiti, scaduto il termine, emendamento mille proroghe, e sono stati trovati 300.000 euro per la copertura finanziaria, perché il partito di Miccichè, che è poi Grande Sud, Forza del Sud, che ha ottenuto 11.000 erotti voti in Molise, si era dimenticato, si era scordato, mannaggia al termine entro cui chiedere i rimborsi. Tranquilli, c'è ancora tempo. Allora, oggi è il giorno del Consiglio dei Ministri nel quale c'è il decreto sulla parola chiave liberalizzazioni. Trovate 20 pagine sul Sole 24 Ore che spiegano tutti i dettagli, come dovranno cambiare, come cambieranno i costumi anche delle famiglie su settori chiave, i trasporti, il gas, l'energia e non solo, l'acqua, i carburanti, tutto quello che ci riguarda, le poste. Allora, intanto non è ancora definitivo. Marco Rogari, a pagina 2 del Sole 24 Ore, il titolo è Professioni e gas, gli ultimi nodi, racconta appunto che ci sono delle novità che verranno affrontate direttamente in Consiglio dei Ministri per il Via Libera. Prima tra tutte quella sulle tariffe minime dei professionisti e poi la separazione della rete gas. Le matasse più intricate restano proprio quelle dei capitoli professioni. Il Consiglio dei Ministri dovrà decidere se abolire completamente le tariffe minime o se confermarle almeno come parametro per il giudice e la pubblica amministrazione. L'orientamento del governo sembra quello della cancellazione in toto, ma gli ordini hanno continuato a spingere fino all'ultimo per mantenere il riferimento alle tariffe, almeno per quel che riguarda i compensi collegati a commesse della pubblica amministrazione e la liquidazione delle parcelle da parte del giudice. Anche l'altro nodo, quello energetico sulla separazione di Eni da Snam Rete Gas, non è ancora chiaro se il governo opterà per la separazione di Eni da Snam Rete Gas o dall'intera Snam, separazione che in ogni caso dovrebbe scattare con un decreto poi da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle liberalizzazioni, quindi più avanti. Vabbè, e poi la grande novità per la verità nei giorni scorsi, nei mesi scorsi si era già profilata come ipotesi. Repubblica vi titola in prima pagina Imprese, lo Stato paga in bot, e i dettagli li trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore. Titoli di Stato per pagare i vecchi debiti della pubblica amministrazione, un nodo per molte imprese italiane che lavorano con la pubblica amministrazione, sono disperate per i pagamenti a, se va bene in alcuni casi 200 giorni, ma si arriva fino a 700 giorni, anni. D'ora in poi, raccontano Carmine Fotina e Marco Mobili, cosa succede? Succede questo: i crediti delle imprese vantati con la pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2011 saranno liquidati su richiesta del creditore in titoli di Stato, mentre per quelli futuri scatterà la tagliola degli interessi maggiorati. La pubblica amministrazione dovrà pagare in 60 giorni, pena un interesse di mora, pari al tasso di riferimento maggiorato del 7-8%. Dunque, avete dei crediti pregressi con la pubblica amministrazione, quando passerà, se passerà così questo decreto, potrete essere pagati in titoli di Stato. E per il futuro, o si paga in 60 giorni, caro Stato, oppure ci sono interessi maggiorati. Cambia molto anche sull'RC Auto. dove verrà scoraggiato il contante, racconta Riccardo Sabatini, sempre sul Sole 24 Ore a pagina 11. Ma certo, insomma, le novità sono tante, così come le proteste sono tante. Beh, abbiamo sentito anche nel giornale radio che i tassisti sono divisi ormai tra il fronte e l'ala dei duri, soprattutto vengono definiti come agguerriti i tassisti di Napoli, mentre quelli che invece hanno deciso in qualche modo di trattare con il governo. Tregua sui taxi, ma la base contesta, così il titolo a pagina 6 del Corriere della Sera. Ci sono c'è l'ala dura e l'ala un po' più morbida. C'è invece anche quello che rispunta, una novità che era in passato, che poi era stata lanciata come un'idea, che poi in realtà era stata un po' accantonata. Rispunta la scatola nera nelle auto. In realtà in gergo si chiama in modo diverso, check box. Sia il Corriere della Sera a pagina 6, sia il Quotidiano Nazionale a pagina 12 parlano di questo strumento che rispunta. L'idea è questa: cari cittadini, accettate di mettere una sorta di scatola nera sulla vostra auto? Che Carmelo Lauricella ce l'ha, ma c'ha tutto Carmelo, mi fa sapere il tecnico con un gesto eloquente, che vi registra tutti i dati, quindi in caso di incidente viene poi a capire come vi siete comportati alla guida, e per questo avrete un risparmio da parte dell'assicurazione, pagherete meno l'assicurazione. Il dispositivo è una scatolina della grandezza di un pacchetto di sigarette da posizionare in un posto non visibile nel cruscotto o nel vano motore. Nessuno tranne il titolare della polizza può avere accesso ai dati in questione, dunque non può essere manomessa. In caso di incidente ovviamente registra tutto. In realtà il Corriere della Sera scrive: non è detto che così si pagherà di meno. Beh, insomma, questa non è una buona notizia. In teoria bisognerebbe arrivare a un risparmio del 10% sulla polizza per chi decide di mettere questa checkbox. In ogni caso, questo è il fronte liberalizzazioni che oggi vedremo. Come reagiscono i partiti su questo? I partiti sembrano un po' sempre più in sordina, sull'attesa, hanno mostrato ABC, no? Alfano, Bersani, Casini. Hanno mostrato e mostrano lealtà al Premier Monti, anche se si vede un po', se si va a scovare nei retroscena, come Libero con Salvatore Dama a pagina 8 c'è un Silvio Berlusconi arrabbiato nero. Il fronte che lo fa per arrabbiare, anzi proprio incazzato, viene definito da Libero. Se sono queste le liberalizzazioni che vogliono approvare, così avrebbe detto Berlusconi rispetto alle bozze che stanno girando in queste ore, allora Monti non avrà i nostri voti. Stavolta se lo scorda, nessun sia critico dal PDL come è stato con la manovra precedente. Quello che fa arrabbiare Berlusconi pare che sia soprattutto lo stop al beauty contest nelle frequenze televisive. Anche per il giornale, leggo i due giornali diciamo più vicini politicamente al centrodestra per capire l'umore del cavaliere Berlusconi. Il cavaliere, questo è il titolo del giornale, non molla il governo ma niente cambiali in bianco. Insomma, un Berlusconi abbastanza arrabbiato. Ma poi si sa, è sempre stato così negli ultimi tempi, pubblicamente lealtà massima al governo Monti, poi nel retroscena invece dei racconti anche di sfoghi all'interno del suo partito, invece accuse molto dure, non so fino a quando va avanti. Recentemente avrebbe detto: possiamo staccare la spina al governo Monti in 10 minuti. Stiamo a vedere quando ci sarà questo decreto. Certo, chi protesta sono vari gruppi, movimenti, i tassisti, l'abbiamo già detto. Il Fatto Quotidiano mette una foto del Duca Onofrio Carrubba Toscano a cavallo in prima pagina del Fatto Quotidiano, che guida il movimento dei forconi insieme a Martino Morsello e poi anche Loreno Bittarelli dei tassisti. Il titolo del Fatto è: nelle mani di questi qua. Il capo dei tassisti romani, ora contestato dai duri, e i forconi che paralizzano la Sicilia, ecco chi tiene l'Italia in ostaggio. Tra l'altro, a proposito di ostaggio, attenzione, perché alcuni benzinai, alcune categorie di benzinai hanno minacciato una serrata di di 10 giorni addirittura, una serrata di 10 giorni di sciopero. E c'è stato un buco forse nell'audio, c'è stata, no, io non mi sentivo più la voce, scusate, sembravo un rincoglionito in questi secondi, ma non mi sentivo più la voce nella cuffia perché è scomparso tutto e continuavo a ripetere e guardare Carmelo. Tutto a posto, Carmelo? Sì, possiamo continuare. Allora, dicevo che ci sono i benzinai che minacciano lo sciopero. 10 giorni di blocco con decorrenza immediata, una serrata che sarebbe davvero clamorosa e che creerebbe molti problemi. Mentre per quel che riguarda il movimento dei forconi, il presidente di Confindustria Ivan Lobello fa una nuova intervista all'Unità, questa volta è più esplicito, perché ieri Confindustria Sicilia ha detto: attenzione, ci sono infiltrazioni della mafia in queste manifestazioni, nei blocchi anche gente legata a Cosa Nostra. Intervistato dall'Unità a pagina 7 da Yolanda Bufalini, dice Lobello: c'è tanta gente per bene, certo, che manifesta a causa di un disagio economico reale, ma se diciamo queste cose, noi che siamo sempre molto cauti sotto questo profilo, se lo abbiamo detto è perché ne abbiamo le evidenze. Abbiamo riscontrato in alcuni blocchi la presenza di persone direttamente e indirettamente legate alla criminalità organizzata e stiamo continuando a fare le verifiche. Le nostre non sono valutazioni generiche. Riguardo agli interessi che avrebbe la mafia di intervenire in queste manifestazioni, dice Lobello: qui entriamo nel campo delle congetture. Cosa Nostra in difficoltà grazie all'azione forte dello Stato e a risposte efficaci delle categorie professionali, potrebbe dunque avere interesse a destabilizzare l'economia. Questo è il presidente di Confindustria Sicilia Ivan Lobello, intervistato dall'Unità. Che dire, vogliamo ripartire dalla Moldava, ormai è diventata famosa così, la donna che era in plancia con il comandante Schettino a bordo della Concordia? Lo facciamo dopo il traffico. Allora, la tragedia della Concordia è ancora sulle prime pagine dei giornali. Intanto vi segnalo che parla il numero uno di Costa. Pierluigi Foschi, presidente e amministratore delegato di Costa Crociere, fa una lunga intervista a Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, richiamata anche ovviamente in prima pagina. Allarme in ritardo, potevamo salvare tutti. Questa è la missione clamorosa del numero uno dell'azienda, che ha di fatto scaricato il comandante Schettino. Senza retorica inizia così l'intervista: attraverso il momento di dolore peggiore dopo la morte di mia madre, così dice Foschi. Sa, rimorsi, si lavora sempre seguendo il principi e leggi severe, poi ci si mette il fattore umano, come in certe commedie di De Filippo, fai tutto, fai tutto, fai tutto, e poi c'è il fesso. Il fesso, chiede Buccini. Il fesso nel senso di fattore umano, risponde Foschi. Abbiamo sempre considerato molto valido tecnicamente il comandante Schettino. Tutto il mondo si chiede come diavolo lo abbiate scelto, chiede Buccini. Si seguono trafile, risponde Foschi. C'è il comando in seconda, poi c'è un collegio che valuta il passaggio al comando in prima. Certo, potrebbe avere qualche problema piccolo, caratteriale, ancorché nulla di emerso a livello formale. Era recepito come un po' duro verso i colleghi, gli piaceva apparire. Questo è il numero uno di Costa Crociere. E poi, senta, potevate salvare molte vite? Io non ci dormo la notte, risponde Foschi. La nave non era in asse, ma abbandonandola prima non avremmo perso vite umane. Questa frase è impietosa, apparirebbe impietosa sul ruolo del comandante. Siamo stati ingannati, ci siamo costituiti parte offesa, abbiamo mandato una lettera di sospensione a Schettino, che è l'inizio di una procedura, però gli abbiamo preso l'avvocato, abbiamo a che fare con esseri umani, ma se lo paga lui. Era ubriaco o drogato, chiede Buccini, credo fosse alterato emotivamente. Vedeva la sua creatura, la nave, affondare davanti a lui. E poi su questa donna moldava, che è diventata il centro, la dipinta come la femme fatale in maniera edulcorata, qualcun altro è andato giù pesante senza sapere in realtà per ora granché. La famosa ragazza moldava, dice Foschi, non c'era alcuna persona non registrata a bordo. Era una hostess di lingua russa, ha lavorato 2 mesi con noi, è sbarcata e risalita al 13 come passeggera, perfettamente registrata. Ho tutti i documenti da mostrare ai magistrati. Amica di Schettino? Non lo so. Questa è la risposta di Foschi, che poi piange solo all'ultima domanda, che è questa: ha paura per il futuro della sua compagnia? Piango a una domanda così. Certo che ne ho di paura, ma conto sulla lealtà dei nostri clienti. Noi resisteremo, miglioreremo ancora, e una cosa così non accadrà più, mai più. Così dice il numero uno della Costa Crociere. La ragazza moldava, Domnica Cemortan, viene intervistata dal Secolo XIX da Paolo Crecchi a pagina 6, il Secolo che ha tirato fuori la foto di questa ragazza. Sì, ero in plancia, dietro al comandante, non intralciavo le operazioni, ero lì perché era suonato l'allarme, sono salita per capire cosa fare, ci andrò dai magistrati, è sicuro. E poi ecco le domande personali. Schettino è un collega, ma è anche il capitano ed è un uomo sposato con una figlia. Lo stimo moltissimo. Punto. Non abbiamo cenato insieme, al massimo abbiamo bevuto un drink e le testimonianze che dicono il contrario sono false. Schettino ha detto di stare serena, che era tutto sotto controllo. Io avevo paura, poi la nave ha cominciato a sbandare, erano tutti bianchi in faccia. E poi si arrabbia molto. Come vi permettete? Io sono una persona per bene, non faccio queste cose, non vendo le interviste a pagamento, come invece il Secolo XIX dice di aver fatto a una TV moldava. Mi scusi, ma il fatto è che Schettino ormai non lo difende più nessuno, chiede Crecchi. Lo so, Schettino è un colpevole perfetto, ora avete anche la storia dell'amante, che cosa volete di più? Insomma, respinge tutte le accuse, non ero la sua amante. Sta di fatto che il mistero c'è, perché si parla di una festa organizzata quella sera, si parla di una ragazza che non era invece registrata in cabina, non aveva la cabina assegnata, e dunque ci si chiede dove dormiva, che mi chiedo anche, ma chi se ne frega, cioè se anche fosse stata una persona che aveva una relazione col comandante, io non capisco dove si voglia arrivare, però sta di fatto, ormai è partito questo, cioè bisogna giudicare i fatti, se ha fatto qualcosa, che avesse a bordo forse una donna con la quale aveva una relazione, saranno fatti suoi. Sta di fatto che Iena incarna perfettamente anche questo impazzimento mediatico in alcuni casi che c'è su questa vicenda, che è una tragedia di base. Iena sulla Stampa, pagina 3, dall'antifascismo all'anticomunismo fino all'antiberlusconismo, oggi ci resta solo l'antischettinismo. Questo per quel che riguarda la Concordia. Che dire, abbiamo ancora un minuto? Abbiamo un minuto? Sì, abbiamo un minuto e mezzo. Bene, trovate i dettagli di tutto quello che è l'inchiesta di cronaca della finanza negli uffici di Standard & Poor's a Milano, un'inchiesta coordinata dalla procura di Trani, dal PM Michele Ruggero. Io ieri quando l'ho letto ho detto: che c'entra la procura di Trani su una perquisizione a Milano di Standard & Poor's? Il procuratore al Corriere della Sera dice: ce l'abbiamo la competenza territoriale, siamo pronti a dimostrarlo, non cerchiamo notorietà ma di dare un contributo solido ed efficace. Registro però, e lo registra il Corriere della Sera in un articolo di Fabrizio Massaro, che il procuratore di Trani, Michele Ruggero, che si è mosso su alcuni esposti dei consumatori, in questi mesi ha chiesto udienza e ha interrogato Tremonti, Frattini, Sacconi, Draghi, Prodi, Passera, Mussari, numero uno dell'ABI, si muove in coordinamento con Vegas, presidente della Consob, ha chiesto di interrogare negli Stati Uniti vari esponenti di Wall Street, il premio Nobel per l'economia Paul Krugman, e anche testimonianze sull'agenzia di rating, al che in America le hanno detto praticamente queste cose non si fanno e hanno opposto il rifiuto. Ruggero, il magistrato di Trani che sogna di processare Wall Street, questo sul Corriere della Sera. Ci fermiamo, giornale radio.